Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buonasera a tutti voi in contatto in questo momento con il Groove Mastery Studio per il Sound Check di Radio 24, la nostra prova del suono che questa sera vorrei aprire con la voce di una cantante non molto conosciuta da noi, si chiama Catherine Russell, cantante americana figlia d'arte perché suo padre Louis Russell fu a lungo il direttore musicale, pensate un po', delle band di Louis Armstrong, figlia d'arte anche perché sua madre Carlin Rae era molto impegnata come vocalist e come musicista con le big band nel periodo dello swing, proprio durante la seconda guerra mondiale, con quelle big band che andavano in giro per il mondo per sostenere il morale dei militari americani. Fatto sta che si è formata in questo ambiente Catherine Russell, che conosce molto bene il repertorio del jazz e che per un paio di anni è stata anche la corista musicista di una star come David Bowie. Quando poi David Bowie annunciò di lasciare completamente le scene, soprattutto l'attività concertistica, Catherine Russell è tornata a fare quello che ha sempre fatto, ovvero la cantante di jazz. Ed eccola qui, un album recente intitolato Bring It Back, un album che si muove a cavallo fra il jazz della tradizione, quindi quello di suo padre, la swinghera, quindi la musica di sua madre, e anche il primo rock and roll. Eccolo qui, Bring It Back, Catherine Russell, album molto divertente qui al Soundcheck di Radio 24. Si intitola Bring It Back, il nuovo album di Catherine Russell. Lo dicevamo, non è una cantante famosissima da noi, ma Catherine Russell è sicuramente molto apprezzata negli Stati Uniti, dove ha vinto alcuni premi, dove è stata anche prima in classifica nel repertorio jazz di iTunes alcuni anni fa, e alcuni brani tratti dal suo repertorio discografico sono stati anche utilizzati in serie televisive, come per esempio la bellissima serie prodotta dalla HBO americana intitolata Boardwalk Empire, una serie dedicata ai gangster e quindi al periodo del proibizionismo. Catherine Russell ancora al soundcheck con un brano della tradizione intitolato After the Lights Go Down Low. Catherine Russell. Soundcheck. Il suono della musica. Eccoci pronti per la seconda parte del soundcheck qui su Radio 24, puntualissimi dopo l'informazione. Siamo tornati con una band chiamata Ron Getz. È una band americana perché tutti i musicisti vivono a New York, ma è una band guidata da un trombettista francese che si chiama Stéphane Roget, trombettista che si è diplomato a Lione presso il Conservatorio Nazionale, ma poi stimolato da un veterano come Didier e Lockwood ha capito che per esprimersi musicalmente, come fanno in tanti, doveva spostarsi a New York. Ed è lì che ha messo su col tempo questa band chiamata The Ron Getz Foundation, che vede la partecipazione della bravissima vocalist, un vero talento, 25 anni per Lily Cooper, un veterano come Gary Bartz al sassofono, ma anche la partecipazione di Corey Fonville alla batteria, che questo è anche questo è un nome da tenere d'occhio perché è pirotecnico come musicista. E quindi da Corey Fonville con Ron Getz Foundation qui al soundcheck. Il brano era, scusate, Such a Morning Person, tratto dall'ultimo album Kiss Kiss Double Jab. Quindi da Corey Fonville, dal suo drumming per Ron Getz Foundation, passiamo invece a quello di un batterista, anche lui giovanissimo, nato nel 1980, ma che ormai conosciamo bene perché è uno dei più richiesti dalla discografia jazz contemporanea, a lungo con Gretchen parlato, vi sto parlando di Kendrick Scott, che approda alla seconda operazione discografica con i suoi Oracle, questo è il nome della band guidata da Kendrick Scott, album per la Blue Note. Il primo era stato prodotto da Derrick Hodge, bassista di Robert Glasper Experiment. In questa produzione Kendrick Scott ripropone lo stesso organico, ovvero Taylor Hexty al pianoforte, molto richiesto questo ragazzo, il chitarrista Michael Moreno, John Ellis al sassofono e Joe Sanders al contrabbasso. Nel brano che vi voglio far ascoltare, intitolato This Song in Me, che poi è una composizione di Derrick Hodge, appare la voce bellissima di Liz Wright, in auge in questo momento con il suo nuovo album. Eccolo qui allora, Kendrick Scott Oracle al Soundcheck. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Chi conosce il repertorio dei Rolling Stones, le melodie e le composizioni scritte da Keith Richards e Mick Jagger avranno sicuramente riconosciuto il tema di Angie, che qui ci viene proposto da uno dei migliori pianisti italiani del mondo ormai da tanti anni, il formidabile Danilo Rea, che rende il suo personale omaggio non solo ai Rolling Stones ma anche ai Beatles in questa recentissima pubblicazione in piano solo intitolata Something in Our Way. E chiudiamo il soundcheck di questa sera con il talento e l'estro di Danilo Rea, che ci propone anche una composizione di George Harrison intitolata While My Guitar Gently Weeps, con la quale chiudiamo il soundcheck di questa sera. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi, darvi appuntamento a sabato prossimo a partire dalle 19:15. A tutti voi buona serata, buona settimana, buona musica e naturalmente buon Natale da Gigi Telesforo con Danilo Rea.